Allora, questa è comunicazione multimediale del 20 gennaio. Allora, le ultime lezioni le dedichiamo tutte a questo, diciamo, ad un argomento in cui vedremo un esempio o più esempi particolari del rapporto parola-immagine in alcune pratiche di agitazione sociale e politica portate avanti da diversi gruppi negli ultimi 20 o 30 anni, da diversi gruppi di attivisti o di media attivisti, o di, insomma, diciamo, gruppi in qualche modo che si collocano all'opposizione del sistema di valori dominante, collegati o non collegati con dei movimenti sociali, in certi casi sono stati anche fuori dalla cosa. Tutto questo insieme di Tutto questo insieme di pratiche non ha neanche un nome preciso, specifico, ma insomma ci sono azioni per esempio di cosiddetto subvertising. Il subvertising è una subversion, una sovversione dell'advertising, cioè della pubblicità. Quindi si usano gli stessi linguaggi o linguaggi analoghi a quelli della pubblicità, però a scopi di, per esempio, ridicolizzazione di certi brand o di certe azioni pubblicitarie, eccetera, eccetera. Si usa più precisamente, per esempio, si può usare delle tattiche di fake, si possono creare i falsi. Personaggi inesistenti o attribuire a personaggi esistenti cose che, non, che questi non hanno fatto, eccetera, eccetera. Si possono costruire dei nomi collettivi. A parte il subvertising, che ovviamente è una pratica legata a qualcosa di molto moderno, insomma, e quindi non ci può essere prima che ci sia la pubblicità. Ma per esempio sia i fake che sia i falsi che i nomi collettivi sono pratiche molto, molto più antiche della rete. E sono collegati a pratiche e riti sociali che affondano le loro radici, dico, nella notte dei tempi, ma insomma, alcuni, diciamo, esempi famosi, già noti, per esempio, di nomi, diciamo, collettivi, sono collegati, per esempio, con le prime lotte del nascente proletariato inglese contro le macchine, contro le fabbriche, contro le industrie che stavano nascendo nel XVIII secolo e che diciamo, spogliavano gli artigiani del loro lavoro e li costringevano attraverso vari meccanismi a trasferirsi nelle fabbriche. Fu allora, per esempio, che comparve presso i ceti popolari inglesi il nome di John Ladd, personaggio inesistente, con il quale però venivano firmate delle azioni di sabotaggio e di distruzione delle macchine che venivano considerate come l'elemento immediato che, diciamo, toglieva il lavoro o che costringeva a trasformare il lavoro delle necessità. Questo John Ladd non esisteva, ma a lui venivano, una specie di eroe, come dire, popolare, a cui venivano attribuite delle, diciamo, azioni, e da cui prese il nome, quell'atteggiamento che ancora oggi si chiama luddismo. Il luddismo è un atteggiamento di critica violenta nei confronti delle macchine, e quindi a poco a poco poi, diciamo, il movimento operaio nascendo, come dire, superò questo genere di cose, però nella prima fase, come dire, il meccanismo è analogo, buongiorno, a quello della nascita di eroi, come dire, popolari. Sempre, come dire, in Inghilterra, un esempio più famoso è quello di Robin Hood, personaggio probabilmente mai realmente esistito, ma d'altra parte, come forse vi ho già detto, gli stati popolari si sentivano, come dire, legittimati, no? Scherzo, naturalmente, in questa pratica, visto che la pratica di costruire, di dare dei nomi a personaggi inesistenti era stata fatta per prima dalla Chiesa, dalla istituzione, diciamo, religiosa. Voi sapete tutti che la gran parte dei santi, una quota notevole di santi, non corrisponde ad alcun personaggio realmente esistito. Per esempio San Giorgio, addirittura il patrono dell'Inghilterra, non è nient'altro che la trasposizione in termini cristiani di alcuni miti greci, Perseo sul cavallo alato Bellerofonte che sconfigge la chimera, è San Giorgio che uccide il drago e salva la principessa, quindi non è una cosa così, diciamo, quindi Robin Hood, insomma, chi. Anche il fondo Pasquino romano può... Allora, Pasquino è un'altra cosa, perché Pasquino è una statua vera, era Pasquino, non si sa di chi fosse, e la plebe, insomma, romana, all'epoca in cui la mano opprimente e ferrea del papato, diciamo, pesava di più sulle spalle del come dire, popolo romano, allora si diffuse questa pratica per cui nottetempo la gente andava e affiggeva a questa statua dei fogli, delle cose di lamentele, oppure di satira, oppure di... E quindi Pasquino divenne il simbolo di una, diciamo, leggenda popolare. È una cosa un pochino diversa, non è, come dire, lì era questa statua che... Sì, no, è simile, lì c'era questa statua che adesso non so bene neanche, forse era di uno davvero, ma la gente non sapeva di chi era, cioè, per cui la chiamava Pasquino perché era collegato con la Pasqua, se un cazzo, non mi ricordo. Allora lì ci fu una pratica popolare di sollevazione, però lì non venne inventato nessun personaggio, diciamo, mentre, diciamo, Robin Hood da un lato, John Ladd, diciamo, dall'altro, sono... un altro è questo, come si chiamava? Accidente, non ho più il nome. Il protagonista di V for Vendetta. Chi ha visto il film di V for Vendetta? Okay. Allora, questo V for Vendetta, come si chiamava? Non mi ricordo più. Jakes? Cioè, cazzo, c'è il fumetto, tutto il fumetto, tutto questo film. Anche questo era una specie di, come dire, identità inventata, il personaggio inventato, che è John Fawkes, mi è venuto in mente adesso, sempre John, perché, cioè, il personaggio di V for Vendetta è uno che pare, se si regolate come il fumetto del film, è uno vestito con i vestiti del 600, quindi, perché questo John Fawkes effettivamente fu uno che, cioè, ci fu qualcuno che tentò di fare, insomma, saltare la torre di Londra, o comunque uno dei simboli del potere all'epoca della grande rivoluzione inglese, come dire, borghese. Questo probabilmente era uno di una setta di agitatori particolari. C'erano i Diggers, i Levellers, cioè c'erano, come dire, i puritani ufficiali di Cromwell, cioè quelli che fecero la rivoluzione del Capitano Re, eccetera. Però poi c'erano anche dei gruppi più radicali, ancora più radicali di questi, cioè, diciamo, con con minore aspetto di riforma, diciamo, religiosa, che c'era comunque anche in quel caso, e un maggiore aspetto invece di critica, diciamo, sociale. I diggers, gli scavatori, e i levelers, i livellatori, questo già vi dà, già i nomi vi danno l'idea di qual era il loro programma sociale, cioè scavare la fossa ovviamente ai nobili e ai ricchi borghesi, o levelers, livellare tutti. Una utopia di tipo ugualitario, comunistico, eccetera. E lì c'era questo John Fox, anche lì un personaggio metà c'era avere il falso, insomma, voglio dire, la cultura popolare ha sempre si è sempre dimostrata incline a crearsi dei propri miti, cioè dei propri personaggi simbolici in cui concentrare tutta una serie di diciamo, aspirazioni sociali, eccetera, eccetera. Allora, però tutto questo naturalmente è qualcosa che attraversa la nascita della modernità, insomma, cioè la nascita della modernità non significa cambiamo tutto, non facciamo più, cioè vuol dire anche assumere pratiche già esistenti, quindi che vengono dalla società com'era, come si andava configurando, ma trasformarle in qualche modo. Nel Novecento, e soprattutto alla metà del Novecento, questa cosa emerge in maniera particolare con i movimenti, con la grande ondata, diciamo, di lotte impropriamente definita studentesca, che noi indichiamo per brevità con il nome dell'anno 1968, nel quale, ma che in realtà è anche quello precedente, cioè i primi movimenti studenteschi negli Stati Uniti che si rivelano essere movimenti di tipo, diciamo, nuovo, quindi non esattamente collegati con i movimenti, per esempio, sindacali di opposizione tradizionale, insomma, avvengono già verso nella prima metà degli anni 60, nel 63-64, nel campus dell'Università di Berkeley nasce il Free Speech Movement, il movimento per la libertà di parola, guidato tra l'altro da un italo-americano, uno studente di nome Mario Savio, in cui c'è una protesta contro il fatto che l'amministrazione dell'università aveva negato lo spazio per una conferenza, non mi ricordo per che cosa, forse contro la guerra nel Vietnam, perché stava cominciando in quegli anni la guerra nel Vietnam, c'erano gruppi studenteschi che erano contrari, allora questi gli negano la cosa, l'università scende un casino, insomma, e c'è la prima grande lotta, si vede questo Mario Savio, mi ricordo meglio, vidi dall'Italia a vedere le foto, c'era questo tipo in piedi sul tetto di una macchina in quel cortile di Berkeley con un megafono in mano che regalo, mi sembrava strano che fosse un nome italiano perché dovrebbe essere americano. All'interno dei movimenti, diciamo, del 68 per capirci, però poi in realtà insomma sono. Perché vi ho detto impropriamente definiti studenteschi? Perché in gran parte questi movimenti cominciarono ed ebbero inizio nelle scuole, negli ambienti studenteschi, ma diciamo erano legati in realtà con una trasformazione del sistema scolastico che cominciava proprio in quel periodo nell'Occidente, di cui oggi voi pagate le conseguenze, cioè siete, insomma, il processo dopo 40 anni, 50 anni è molto, maturato. Il processo è semplicemente questo, era il passaggio, la trasformazione dei sistemi scolastici da luoghi di formazione della classe dirigente a luoghi di formazione della forza lavoro. Le radici del 68 furono strutturalmente queste, cioè un grande cambiamento, il capitalismo maturando è ancora dentro l'alveo, ma per pochi diciamo, decenni ancora, della grande trasformazione degli inizi del secolo del Novecento, del fordismo, cioè dell'organizzazione razionale della produzione, della rete alimentare, eccetera, eccetera, aveva bisogno di una forza lavoro sempre più qualificata, cioè l'operaio generico, sì, c'erano gli operai, diciamo, come dire, generici, gli operai massa, quelli che non facevano altro che fare un singolo gesto per tutta la loro vita lavorativa, di avvitare il bullone o di spostare una cosa mentre le robe gli passavano avanti, ma dietro a questa catena di montaggio ci voleva, era necessario tutto un lavoro di tecnici, operai più specializzati, organizzatori del lavoro, eccetera, eccetera, per cui la vecchia formazione professionale non andava più bene. Ci voleva una formazione, occorrevano dei lavoratori polivalenti, più flessibili dal punto di vista del loro impiego nella catena lavorativa. E quindi, visto che la formazione professionale tradizionale era inefficace, non serviva per questo nuovo genere, nascevano un sacco di figure intermedie tra quella del dirigente e quella dell'operaio, l'operaio massa, erano operai specializzati, tecnici, gente che... Insomma, tutte queste cose cominciarono a passare attraverso i sistemi scolastici pubblici o privati che fossero, ma il sistema che... Quindi l'università da un luogo di elite, negli Stati Uniti già erano un po' più avanti gli USA, qualche anno, di una decina d'anni forse, quindi prima negli USA, poi anche nel resto, poi in Europa, le università smisero di essere di elite, vennero aperte, c'era anche una spinta sociale verso il fatto che i figli degli operai o gli impiegati di basso livello volevano che i loro figli studiassero perché avevano un avvenire migliore, va bene, facciamoli studiare, facciamoli entrare, ma contemporaneamente quindi vuol dire che l'università non può più essere, come era un tempo, il luogo di formazione politica ed economica delle elite dirigenti del paese, diventava un luogo di formazione di forza lavoro. Come siete voi oggi avete già la consapevolezza di, anche in un luogo così, così sbirolo e così mendace come un'accademia di belle arti, in cui se uno pensa a dice qua si diventa artisti, voi sapete benissimo che non diventate artisti, perché non si diventa artisti studiando, se gli artisti ancora esistono, se ha senso ancora dire che esiste una figura di genere. Quindi voi sapete benissimo che siete della forza lavoro in formazione, vi state formando per poi fare dei lavori specializzati, interessanti, importanti, che piacerà, però forza lavoro, siete lavoratori, non siete questa strana figura di eroe romantico che va in giro coperto da una sciarpa e sta lì, guarda, mi viene l'ispirazione, ora adesso faccio un video. No, le cose non vanno così, sapete che lavoro. Ecco, allora, voi, però me, quando io nel 1962 mi iscrissi all'Università di Genova, Facoltà di Scienze Naturali, Corso di Laurea in Matematica, entrai pensando di entrare, la laurea, una cosa così, no? E dopo un anno o due mi resi conto che nonostante che l'università di allora fosse diversissima da quella che è oggi, ma già allora si cominciava a capire, e soprattutto che il governo stava cominciando a preparare una riforma della scuola, dell'università, che portava l'università da un luogo autonomo di formazione e di circolazione e di diffusione del sapere e della cultura a un luogo subordinato agli interessi dello sviluppo capitalistico. E questo è quella fu la molla delle lotte, insomma. Ecco perché dico che è riduttivo dire che il 68 fu un movimento studentesco. A parte il fatto che poi arrivarono anche gli operai, eccetera, quelli che erano gli operai davvero, ma già gli studenti nella seconda metà degli anni 60 non erano più gli studenti tradizionali, già non erano più, erano più o meno consapevoli a diversi livelli di essere lavoratori, futuri lavoratori, forza lavoro in formazione. Per questo si deve dire che i movimenti del 68 furono movimenti di tipo proletario, di tipo diciamo certamente diversissimi dai movimenti tradizionali dei lavoratori organizzati nel sindacato, eccetera, eccetera. Bene, adesso vi dico, vi ho fatto tutta questa pipa per dirvi cosa? Per dirvi che, come sempre, dapprima in America e poi anche in Europa, questi movimenti, diciamo da un punto di vista ampio, diciamo di masse, di numeri consistenti, forse non erano la maggioranza, ma erano numeri consistenti comunque, quindi erano minoranze talmente attive da spostare diciamo, l'interesse dei media, eccetera, e anche l'agenda politica in qualche modo. Bene, quindi dentro questo vasto movimento di studenti diciamo proletarizzati o proletarizzanti o in via di proletarizzazione, cominciarono rapidamente a emergere due, non dico neanche posizioni, ma due proprio punti di vista fondamentali diversi e che presto diventarono opposti e con grandi e con una divaricazione che ci fu negli USA e ci fu anche in Europa. Diciamo, da un lato l'ala politica, cioè una parte di questi movimenti era consapevole che per ottenere le proprie rivendicazioni per combinare qualcosa, per realizzare le proprie aspirazioni, dovevano allearsi con i movimenti esistenti dei, come dire, lavoratori, o dovevano convincere quelli che erano già lavoratori a fare un fronte, diciamo, comune per scambiare le cose, per una serie di obiettivi democratici, eccetera, eccetera, di allargamento della, diciamo, democrazia, per avere voce in capitolo, per una serie di cose tutte quante giuste, come ovvio, che quindi occorreva dotarsi di una serie di strumentazioni, di strumenti organizzativi che erano certamente nuovi, ma molto simili a quelli tradizionali. Ci voleva quasi un partito politico, ci voleva quasi un nuovo, diciamo, sindacato, rinnovato, molto nuovo, eccetera, eccetera, ma insomma questa è l'ala che negli Stati Uniti si organizzò rapidamente nella SDS, Students for a Democratic Society, che fu l'organizzazione studentesca politica più importante degli Stati Uniti fra il 64 e il 67, negli USA negli stessi anni intanto in quel momento le comunità afroamericane, dopo anni e anni, secoli di oppressione, si stavano risvegliando, c'era un movimento per i diritti civili, quindi per l'equiparazione, e ci fu una storica sentenza della Corte Costituzionale dopo che una signora, diciamo, nera nello stato dell'Alabama si era stufata di stare sempre in piedi sull'autobus, che non poteva sedersi perché i posti a sedere erano riservati ai bianchi, fece una cosa, la Corte Costituzionale ovviamente le diede ragione, altri fecero altre cose, c'erano regolamenti discriminatori, per esempio per l'ammissione di studenti neri all'università, ci fu uno studente la mamma che vinse il suo decorso, dovette essere scortato a scuola dalla Guardia Nazionale, perché se no tutti gli altri studenti bianchi, razzisti, eccetera, bastardi, maledetti, non avrebbero potuto entrare. Cioè, adesso non ve la sorprendete se vi dico come la penso, insomma, erano bastardi, maledetti, stronzi, che già vanno. Allora, c'erano queste lotte e presto anche nei movimenti dei neri sorse un'ala, diciamo, radicale, cioè c'erano quelli, diciamo, le brave persone, tipo Martin Luther King, eccetera, questi qua, che erano tutti, insomma, cioè, marce pacifiche, brave, cioè. A un certo punto qualcuno si ruppe le scatole e dice, ma come, se qua arriva la polizia, ci ammazza, eccetera, dice no, ci organizziamo da noi, facciamo il Black Power, quindi ci fu il movimento del Black Power, venne fondato anche lì un partito, il Black Panther Party, il partito della Pantera Nera, e le comunità dei ghetti cominciarono ad organizzarsi anche militarmente. Ci furono contatti fra la SDS, fra gli Students of the Democratic Society e il Black Panther Party, ci furono alleanze. Il Black Panther Party era molto giustamente geloso della propria autonomia e quindi non è che potevano entrare i bianchi in quanto tali dei partiti, anche i bianchi amici progressisti, però ci furono accordi, alleanze eccetera eccetera. E il terzo elemento grosso era la guerra del Vietnam, cominciata dal tanto osannato oggi presidente John Fitzgerald Kennedy, assassinato a Dallas nella Giuseppe Plaza nell'anno 1960, nel novembre del 63, però fu lui che cominciò a mandare i marine e i soldati nel Vietnam del Sud dopo che i francesi che occupavano quella zona prima di loro erano stati sconfitti a Dien Bien Phu nel 1954. In tutti gli anni, tra il 54 e il 62, cominciarono a arrivare cose, fino a che nel 63 cominciarono proprio a mandare le prime truppe. Siccome molte di queste truppe, siccome venne messa la leva obbligatoria, che negli Stati Uniti non c'era prima, infatti viene sempre messa tolta, anche ora che bisogna andare quelli in Iraq, c'è una sorta di leva semi-obbligatoria, insomma cambiano sempre le cose, nei momenti di pace lì non c'è perché è un paese abbastanza grande, si possono accontentare dell'esercito di professionisti, nel caso loro. E allora, questo insieme di cose, situazione sociale studentesca, rivolta o comunque ribellione, contestazione, protesta della gente di colore contro le discriminazioni razziali, guerra nel Vietnam, questi tre elementi. Bene, allora vedete, questa era la SDS negli Stati Uniti e i vari gruppetti molti anni dopo, i vari gruppetti politici in Europa, in Italia, lotta continua, potere operaio, lotta operaia, era l'ala politica, la quale dice sì, vogliamo cambiare la nostra vita, vogliamo trasformare, non vogliamo essere al servizio del capitale, eccetera, eccetera, però non possiamo cambiare di botto le nostre vite. E poi è stupido cambiare singolarmente, cosa faccio io? Cambio io da solo? No, bisogna prima fare una grande rivoluzione sociale. Fatta una grande rivoluzione sociale con l'aiuto degli operai, degli altri stati dottori, eccetera, eccetera, una volta cambiata, in termini marxisti, la struttura, potremo cambiare la sovrastruttura e quindi cambiare la nostra vita. L'ala, politica, in generale, in maniera diversissima, ma insomma sia negli USA che in Europa, quindi sosteneva una sorta di, chiamiamola così, politica dei due tempi. Prima cambiamo la struttura sociale, addirittura nel caso prendiamo addirittura il potere, noi giovani generazioni, o condizioniamo quelli che hanno il potere a fare certe cose, quindi a fare una serie di cambiamenti di tipo sociale, di tipo strutturale, cambiamo la società. Una volta che cambierà la società, cambieremo la nostra vita, cambierà la nostra vita. A scanso qui vi dirò che io stavo in questa ala negli anni 60, non nell'altra che adesso vi dirò. L'altra ala invece, quella che negli Stati Uniti fondarono un partito pure loro, però comunque prese il nome di hippies, perché si chiamano hippies, perché fondarono una specie di partito, di finto partito chiamato Youth International Party, partito internazionale della gioventù. Youth International Party hippies, e poi gli metti l'acqua davanti, in Europa furono chiamati capelloni, freak, tutte queste cose qua, questa ala sosteneva un punto di vista diverso, opposto rispetto a quello dell'ala politica. Dice sì, va bene, la struttura cambia, però ragazzi qua voi con questa politica qua rischiate di non cambiare mai, perché vi infilate, volenti o nolenti, dentro un meccanismo, dentro per cui vi come dire, proponete come una forza di ricambio politico, ma in realtà quando comincerete a fare politica verrete assorbiti nello stesso ingranaggio, nello stesso meccanismo, e quindi non cambierete davvero nulla. Il modo per cambiare davvero le cose è cominciare a cambiare ora, nella nostra vita quotidiana, privata, singolarmente, uno per uno e tutti insieme. Se saremo un grande numero che faremo questo cambiamento, oggi, dice, vedrete che a questo punto cambierà anche il resto della società, cambieranno anche le strutture economiche e sociali. Era, come voi capite, proprio l'inversione totale del discorso dell'ala, chiamiamola politica. Non prima cambiare la struttura e poi cambiare la vita quotidiana, perché questa sarà una conseguenza, ma prima cambiare la vita quotidiana, e questo avrà come conseguenza, semmai, un cambiamento di struttura. E quindi fu nella vita quotidiana che queste componenti, che queste correnti, eccetera, cominciarono ad agire. Per esempio, abbandonando in massa le case dei propri genitori, pratica che era già comunque diffusa nei paesi anglosassoni molto più che non nei paesi latini, ma diciamo radicalizzando questa cosa e non cercando di costruirsi una vita analoga a quella dei propri genitori, quindi con moglie, figli, famiglia, eccetera, no, ma andando a vivere insieme, un certo numero di giovani insieme, dentro dei posti, quindi nelle comuni, quindi cambiare la vita quotidiana cambiando il modo per esempio di vivere. Rapidissimamente una sostanza che era stata dichiarata illegale da non molti anni prima, cioè dagli anni 20 negli Stati Uniti, la cannabis era stata dichiarata illegale per una serie di motivi, ma quello fondamentale dei quali è che c'era una intera struttura federale che era rimasta senza lavoro, perché era la struttura che provvedeva alla repressione dei reati sull'alcolismo quando era vigente il proibizionismo, cioè le leggi che vietavano la vendita e il consumo in pubblico di alcolici. Una volta che venne abrogata questa legge, perché ovviamente era una stupidaggine, aiutava solo a far crescere un gran numero di settore illegale di consumo di alcol, abrogarono questa legge, ma la struttura, questa Food and Drug Administration, che era nata per reprimere gli alcolizzati o i consumatori di alcol, anche se non erano alcolizzati, trovò senza lavoro. E quindi dovette inventarsi rapidamente un nuovo pericolo. Questo nuovo pericolo fu, ahimè, individuato con una serie di falsi scientifici clamorosi, con una serie di relazioni che fanno inorridire chi le legge oggi, venne individuato nella cannabis, che era una sostanza largamente diffusa presso i lavoratori, presso i giovani, soprattutto i giovani lavoratori, perché nei loro posti di origine, dal Medio Oriente all'India, alla Giamaica, che stava sotto l'area degli USA, era una cosa che faceva parte della loro cultura, ed era una roba per cui tu lavori per 8 ore, alla fine ti fai una canna e ti rilassi e stai un po' più tranquillo invece di stare tutto lì. Allora vennero, se voi leggete le cose, scoprite cose assurde, perché vengono attribuite alla cannabis degli effetti che non sono propri della cannabis, aggressività, eccetera, quindi delle droghe di tipo anfetaminico, o addirittura gli vengono attribuiti effetti psicolettici, quelli che poi saranno chiamati psichedelici, tipici di altre droghe, peyote e poi la droga, l'LSD, eccetera, tutte robe che la cannabis non fa, cioè non vedete la Madonna quando consumate una canna, né vi incazzate come delle iene, uscite di casa armati di un'accetta, pronti a troncare il primo passante che, vedete, la cannabis non fa questi effetti né di un tipo né dell'altro, ha un effetto molto diverso, sembra eccessivamente rilassante, può essere pericoloso guidare una macchina quando uno si è fatto una canna, no, ma già tre o quattro di fila, molto probabilmente sì, ma non per le robe che diceva questo, insomma, sulla base di questa cosa, quindi di questo falso, di questo clamoroso falso scientifico viene quindi ovviamente, per esempio, il consumo di cannabis viene rivendicato, praticato pubblicamente da queste, no? Quindi non so se mi sono, come dire, sono spiegato, no? Quindi c'è da una parte un'ala che chiameremo politica, dall'altra un'ala che chiameremo invece controculturale, cioè persone che pensavano che si dovesse agire prevalentemente sull'aspetto culturale, quindi dei comportamenti anche, degli stili di vita, di quelli che oggi si chiamano stili di vita, e che questo sarebbe stato il vero cambiamento importante e che anzi da questo poteva seguire un cambiamento di tipo anche strutturale, economico e diciamo sociale, mentre l'ala politica molto più influenzata da un, come dire, punto di vista certamente rivoluzionario e diciamo ma più tradizionale, che è quello del marxismo, in qualche modo diceva, no, di un marxismo interpretato in maniera anche un po' troppo rigida per certi versi, però comunque che ha un qualche fondamento nel pensiero del marxismo, diceva no, prima la struttura e poi la sovrastruttura. Gli hippies dicevano prima la sovrastruttura e poi la struttura, detto in termini. Perché vi dico questo? Perché dei metodi diversi, per esempio per no, i mezzi, dei gruppi di lotta armata, di rivoluzione. Allora, sì, all'interno dell'ala politica, sia negli USA che in Europa, all'interno della politica, ma non è tutta l'ala politica, no, politica. All'interno di quello certamente maturano le posizioni più, diciamo, radicali. Negli USA per prima, perché negli USA, come vi ho detto, si stava costruendo l'esperienza diciamo dei neri, che furono diciamo i movimenti, diciamo, radicali neri furono importantissimi sia come esempio che come dibattito eccetera, anche per i giovani, come dire, studenti bianchi. Poi ovviamente l'esperienza del Black Panther Party andò incontro ad un esito catastrofico, ma anche perché la CIA riuscì in qualche maniera ad infiltrare questi, come dire, movimenti, e quindi insomma i leader del Black Panther Party, che erano persone anche molto molto brave, molto intelligenti, come Bobby Michael, Eldridge Cleaver, e c'era una donna anche che era Angela Davis, che era la loro, che andava a dire per il mondo, così, e Stockley Carmichael. Personaggi di una certa, diciamo, levatura sia pratica che intellettuale, però molti, insomma, di questi vennero o incastrati con storie di sesso, così sono messi tutti quanti in galera e alcuni scontri armati, diciamo, ci furono. In quel periodo c'era una cantante di origine sudafricana che era Miriam Makeba, che è morta l'anno scorso, qualche anno fa, l'anno scorso credo, proprio qua in Italia. Dall'Italia, che sposò addirittura Stockley Carmichael, che era uno dei leader del Black Panther Party. Insomma, ma per tutti noi, anche per l'Europa, insomma, la cosa, tutti quanti facciamo il tifo per il movimento nero e per l'ala più, diciamo, radicale del movimento nero. No? Tutti, cioè, quando vedevamo le foto di questi che giravano per il ghetto di Los Angeles col mitra in mano, perché erano la loro forza di polizia, si autodifendevano dai poliziotti bianchi, che erano, devo dire, veramente razzisti, insomma, deplorevoli, come gliene facevano di tutti i colori, insomma, quindi, cioè, non è che era una cosa così. Però certamente questo porta, per esempio, una parte degli SDS americani a fare questa scelta di entrare in clandestinità, di costruire dei piccoli dei quei gruppi con la logica aberrante che, come dire, facendo la lotta con le armi, anche con poche persone, si sarebbe innescato un grande e furono gli Weathermen, che quindi anche gli Stati Uniti hanno avuto le loro Brigate Rosse meno. E qua in Europa invece vari gruppi, in Germania la RAF, la Rote Armee Fraktion, in Italia le BR, le Brigate Rosse, prima Sinistra Proletaria, poi le Brigate Rosse, che come dire, che portavano ancora più in là questa separazione tra l'oggi e il domani, cioè utilizziamo oggi gli stessi metodi che usano che usano le forze repressive borghesi, perché erano gli stessi metodi, quindi anche noi armati, perché però noi lo facciamo per un altro scopo, per un futuro migliore, che era ovviamente una logica aberrante sia negli Stati Uniti che in Europa, e questi tipi di movimenti vennero rapidamente, diciamo, sconfitti, più o meno rapidamente. Gli Weathermen molto abbastanza rapidamente, la RAF anche rapidamente. In Italia con le Brigate Rosse ci si mise un po' di più, diciamo, e addirittura 10 anni dopo, il 1968, cioè nel 78, questo gruppo di stolidi sedicenti rivoluzionari riuscì addirittura a rapire e purtroppo ad assassinare il presidente del Consiglio italiano di quegli anni, il democristiano Aldo Moro. Quindi, però poi da lì in poi cominciò comunque anche per le Brigate Rosse una parabola discendente. Questi quattro gatti che mettono in galera adesso sono veramente niente rispetto a quello che erano le Brigate Rosse, sono gruppetti di vecchi vecchi o anche giovani nostalgici. Guarda, poverino, sto qua ultimo, era figlio di un brigatista adesso. Cioè, invece di dire papà, mai rotti coglioni, via, questo vuole rifare le stesse cose, comunque non sono più un rischio e un pericolo. E queste ali e queste frange armate, insisto, hanno fatto prima male a noi, cioè a noi rivoluzionari dell'epoca, che allo insomma stato borghese, che non è stato quasi mai scalfito da queste cose, ma al nostro interno hanno comunque portato disorganizzazione, diciamo casino, eccetera, impedendoci di concentrarci sulle cose più importanti. Dovevamo sempre fare polemica contro questi disgraziati qua, per cui insomma. Quindi questa è la cosa, diciamo, estrema. Però la polarità, diciamo, tra atteggiamento di opposizione politica e atteggiamento di opposizione culturale, quindi tra politicismo nei, come dire, movimenti e controculturalismo, è stato comunque importante, ed è stata una delle ragioni, ha comunque secondo me indebolito il movimento, perché se si fosse trovata una sintesi tra le due posizioni, cioè se il movimento, cioè la gran parte di quelli che facevano, una parte rilevante di quelli che scendevano in piazza, facevano le manifestazioni contro la guerra del Vietnam, eccetera, non erano organizzati nei gruppi. Io poi facevo parte di un gruppo anch'io, piccolissimo, insomma, ma diciamo, non me ne rendevo conto all'epoca. Cioè, la gran parte di questi non li avremmo mai convinti a entrare, però venivano lo stesso, però diciamo gli hippies, tutti tatuati con i loro cannoni, eccetera, eccetera, venivano comunque alle cose. E noi comunque, anche noi politici in Europa, leggevamo i fumetti, i Freak Brothers, Sheldon, Fritz Kamb, i fumetti della controcultura, diciamo, come dire, americana. Eravamo fianco a fianco, avevamo la stessa età, eravamo, come dire, giovani uguali, avevamo stili di vita tendenzialmente simili, ma a noi ci, come dire, accecava questa priorità della, come dire, politica, a loro li accecava questa priorità della cultura, ma, e non si riusciva. Se avessimo trovato sia negli Stati Uniti che in Europa una sintesi un po' più efficace, forse tante cose sarebbero andate diversamente, ma con i secoli, ma se non si fa, le cose sono andate comunque così. Allora furono prevalentemente negli anni 60, fu prevalentemente la componente controculturale che cominciò a elaborare strumenti di lotta e metodi, diciamo, di lotta del tipo di quelli che vi ho detto all'inizio, quindi se non direttamente fake e nomi, diciamo, collettivi, comunque diciamo lo stile di questi questi, come dire, movimenti, i cui esponenti più importanti negli USA furono Jerry Rubin e Abby Hoffman. Jerry Rubin, autore di un libro famosissimo che è Do It, fallo, Do It, punto esclamativo, fallo, e quindi voi capite che quando dice fallo, vuol dire non aspettare che sia cambiata la società, fai ora le cose che tu reputi siano i tuoi diritti, fallo ora, fuma adesso le canne, fatti adesso le canne, non aspettare che qualcheduno le renda, diciamo, legali, fuma anche se è illegale perché è un tuo, diciamo, diritto, perché è una quindi fallo, dipingi di giallo il tuo poliziotto, cioè erano tutti modi reali o simbolici di ridicolizzare o di mettere l'accento principalmente sull'aspetto comunicativo della l'ala politica dall'altra parte invece non aveva il minimo interesse per queste cose, facevamo dei volantini noiosissimi che andavamo a vedere, cioè, dicevano no perché bisogna prima cambiare, era tutta un'analisi molto, come dire, seriosa e da un certo punto di vista eccessivamente legata ad un modello marxista, diciamo, classico, quindi al tentativo di riproporre alla metà del Novecento o pochi, insomma, negli anni 60 e diciamo 70, dei modelli che noi pensavamo fossero collaudati dal punto di vista della, diciamo, rivoluzione. Certo, c'erano dei partiti comunisti negli Stati Uniti, no, perché c'erano, ma era piccolissimo, era stato distrutto già negli anni 50, ma anche prima, insomma. Ma in Europa c'erano, particolarmente in Italia e in Francia, erano due partiti molto grossi, quello italiano ma anche quello francese, ma noi accusavamo questi partiti comunisti di usurpare il proprio nome, cioè li accusavamo di non essere più comunisti, di non essere più, se mai, come dire, erano stati rivoluzionari, e quindi noi volevamo costruire invece un partito comunista vero, un partito comunista, pensavamo noi, vero. Non pensate che questo c'entri tanto per dire con partiti di oggi come Rifondazione Comunista, che Rifondazione Comunista viene da un pezzo del PC e da alcune piccole correnti del socialismo rivoluzionario e non ha mai avuto, cioè, alla gran parte di Rifondazione Comunista andrebbe bene che si riformasse il vecchio PC, grosso modo, mentre noi eravamo contrari, noi invece volevamo fare un partito o un movimento di tipo totalmente, e il nostro, però perlomeno di una parte di noi, insomma, il nostro grande modello era il partito bolscevico di Lenin, che era quello che aveva fatto la prima rivoluzione, diciamo, riuscita, in condizioni un po' strane, perché l'avevano fatta in un paese che non era, diciamo, capitalistico, perché non c'era capitalismo, c'erano pochissime idee, e l'aveva fatto non, ma a questo noi non ci pensavamo, il partito comunista bolscevico non fece la rivoluzione mobilitando gli operai, certamente quei pochi che c'erano sì, ma erano pochi, troppo. La fece mobilitando i contadini e i soldati, e la fece soprattutto perché la Russia era in guerra, come sapete, nella prima guerra mondiale, e la prima cosa il primo punto del programma bolscevico era fine della guerra e quindi ritorno a casa di tutti. Ora la Russia è un paese come tutti i paesi veramente contadini, i contadini quando possono fare la guerra? Possono fare la guerra 6 mesi all'anno, cioè all'incirca d'inverno. Quando comincia a venire maggio-giugno, i contadini non possono più fare la guerra, devono mollare le armi a capo, devono tornare a casa e falciare il grano o fare le cose, perché già d'inverno possono anche bastare le donne che stanno a casa. Quando ci sono lavorati, quelli da fare? I contadini russi erano disperati, l'esercito russo era disperato perché era tutto fatto di contadini, tutto fatto di persone che avevano già perso per 2 estati di fila il loro, diciamo, raccolto. C'erano fenomeni di diserzione, la guerra era totalmente impopolare. I tedeschi era già un paese industrializzato, era una roba diversa, era un esercito più. Ma i contadini, non è una cosa semplicistica, è vera, insomma. No. E quindi, diciamo, la guerra era molto più impopolare nell'esercito russo che non in quello, diciamo, tedesco. La grande furbata, la grande, diciamo, idea giusta, mica dico sull'indagine, diciamo, di Lenin, fu quella di dire no, facciamo la pace, basta, Quindi la prima cosa nel novembre 17 viene preso il Palazzo d'Inverno e insomma buttano giù il governo rivoluzionario socialdemocratico, prendono il potere formalmente i soviet, in realtà prende il potere direttamente il Partito Comunista dell'URSS. Novembre, dopo 15 giorni, viene Trotsky, ministro degli esteri del governo rivoluzionario bolscevico, viene mandato a fare la pace con la Germania, senza neanche discutere la Russia. Trotsky firma a Brest-Litovsk, un paese al confine tra il Baltico e la Polonia, insomma nella zona del Baltico tra la Russia e la Polonia, e l'altro che era la Prussia orientale, non era ancora la Polonia, fa questa cosa e la gente va a casa. I contadini sono felicissimi perché finalmente possono, dopodiché c'è un casino, ci sono altri 5 anni di guerra, perché ovviamente poi c'è la guerra civile, eccetera, però da un punto di vista della roba, e per questo la sinistra moderata europea ha sempre accusato i bolscevichi di aver fatto il gioco della Germania, la quale venne però sconfitta comunque, quindi non è che dice voi ci avete abbandonato, voi russi, dicono l'Inghilterra, la Francia e l'Italia, va bene, so. Se ci avete abbandonato nel momento in cui noi eravamo più in guerra con loro. Allora noi, senza pensare a due tre qua, invece no, leninisti come delle cose, dicono no, partito rivoluzionario, bisogna costruire, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, in realtà, questo quadro che vi ho tratteggiato è un po' schematico e lo correggiamo subito, perché le cose non erano propriamente così. Non era vero che nell'ala politica non ci fossero anche componenti e modi di pensare che erano lontani dalle premesse, ma più vicini alle conclusioni o alla pratica dell'ala che poi si sarebbe detta creativa, controculturale. Una tale componente ideologico, teorico, politica, marxista c'era, ed era un piccolissimo gruppo di artisti o ex artisti francesi chiamato l'Internazionale Situazionista, l'Internazionale Situazionista. E questa corrente teorica, politica, eccetera, ebbe modo di provare il proprio valore, in qualche modo, esattamente in uno degli episodi più importanti del 68 mondiale, e cioè nel maggio francese, nel cosiddetto maggio francese, nella occupazione della Sorbona dell'aprile-maggio 1968, in cui il comitato di occupazione della Sorbona era composto per una buona metà di questi curiosi e strani marxisti, perché marxisti erano, che si chiamavano situazionisti. L'altra metà, più o meno, era invece influenzata da una forza politica molto più tradizionale, anche se rivoluzionaria, che era la Ligue Communiste Révolutionnaire Trotskista, guidata da Alain Krivine e da Daniel Ben Saïd, che è morto da poco, alla giovane età di 64 anni, aveva 2 anni meno di me, Daniel Ben Saïd. Io ricostruì tutto questo perché io nel 69 entrai a far parte dell'organizzazione trotskista italiana, che era molto più piccola di quella francese, però erano i nostri fratelli, maggiori, loro erano tanti e noi pochi, ma insomma comunque. Ci furono molte tensioni in questo comitato di occupazione, perché nel comitato di occupazione si confrontarono esattamente queste due linee che vi ho detto adesso, grosso modo, cioè una impostazione politicista tradizionale dei trotskisti e una impostazione, questa volta non c'erano gli hippies, erano altrettanto politici di loro, ma più innovativa, chiamiamolo così, e più attenta alla comunicazione dei situazionisti. Chi vinse? O chi vinse? Chi passò alla storia, se ci pensate adesso, e se pensate che il maggio francese a tutt'oggi è noto prevalentemente per i suoi slogan, per le scritte sui muri, eccetera, eccetera, capite bene che sono stati i situazionisti quelli che hanno influenzato di più l'immagine, perlomeno, del come dire, movimento. D'altra parte i situazionisti si erano già ben, come dire, piazzati, perché già fino dall'anno precedente, cioè dalla fine del 1967, avevano messo a segno un bel colpo, infiltrandosi negli organismi rappresentativi dell'Università di Strasburgo, città al confine, come voi sapete, tra la Francia e la Germania, quindi zona bilingue e attualmente sede del Parlamento europeo, infiltrandosi, letteralmente vincendo, diciamo, presentandosi, come sempre fanno i gruppi, diciamo, più o meno politici, con gli organismi, diciamo, rappresentativi, insomma, lo fa anche il collettivo Outart in questa scuola, la Controspettiva Accademia a Sbrera 1, con i loro orientamenti politici, insomma, non è che si presentano, piano i voti, non c'è niente. Questi qui invece era un po' più furba, erano due soli in realtà, erano una minoranza, gli altri erano tutti del PCF, ma questi due condizionisti riuscirono a fare una cosa geniale, e cioè riuscirono a convincere dapprima quelli degli altri, insomma, i loro colleghi nell'organismo rappresentativo, ma poi soprattutto il, diciamo, rettore dell'Università di Strasburgo, a finanziare la stampa di un libricino che loro dicevano, un libricino che parlerà della condizione studentesca, parlerà degli studenti, bla bla, tutti tranquilli perché nessuno aveva idea di cosa ci sarebbe stato dentro questo libro. L'università paga e nel novembre del 1967 esce questo libro intitolato De la misère dans le milieu des étudiants, della miseria nell'ambiente studentesco, che è un atto di accusa, una serie di improperi contro la borghesia, contro il capitalismo, contro tutta la roba, con le posizioni situazioniste. Ovviamente quando mi sta in Strasburgo vede questa cosa, cerca di ritirare il libretto della situazione. Della miseria nella media studentesco è il vero manifesto politico del 68 francese, uscito l'anno diciamo prima. E ben presto questa cosa circola per, diciamo, l'Europa, e quindi dice, ma chi sono questi situazionisti? Chi sono? Perché nessuno sapeva, allora era un piccolo gruppo. E allora adesso vediamo, e quindi vediamo perché i situazionisti sono in realtà all'origine teorica di tutte queste pratiche che vi ho detto, subvertising, fake, nomi collettivi, eccetera, eccetera. E quindi sono all'origine di una delle più interessanti, dal mio punto di vista, combinazioni di parola e di immagine inedita che ci siano state nella seconda parte del secolo scorso e anche nei primi anni di questo. Quindi varrà la pena di fermarci un attimo, quindi, diciamo, passare un attimo e cercare di capire chi erano questi, come dire, situazionisti, perché se no non... Ciao! E perché la cosa ci riguarda in maniera, come dire, particolare? Perché ci riguarda diciamo, noi che stiamo a Brera, in qualunque accademia d'arte stessimo ci riguarda? Perché questo gruppo era un gruppo che aveva origini artistiche, erano tutti artisti. Artisti più o meno, poi insomma, di tipo forse un pochino particolare, ma obiettivamente da lì, come dire, venivano. Insomma, quella era la loro storia. Diciamo, l'atto di nascita, l'International Situationist, nasce in Italia e precisamente in un paesino che non mi ricordo, Crosia d'Arroscio, comunque in provincia di Imperia, nel 1957, ma deriva da due diverse esperienze degli anni precedenti, una delle quali è a sua volta anch'essa un internazionale, International Trist, e l'altro è il gruppo Cobra. Ovviamente il termine international si riferisce in modo esplicito ad una storia politica che è l'Organizzazione Internazionale dei Lavoratori, creata per la prima volta da Karl Marx e da tutto, diciamo, il movimento socialista e operaio internazionale in Europa alla metà circa degli anni 60, 1860-61, degli anni 60 dell'Ottocento, e poi, diciamo, passata poi, questa è la prima, diciamo, internazionale, poi dopo la morte di Marx viene riformata, diciamo, e prende il nome di Seconda Internazionale dal 1875-80 in poi, cioè dopo la Comune di Parigi c'è una crisi, dopo la Comune di Parigi nel 71, poi viene rifatta, Marx è già morto però, e però è il Partito Socialdemocratico Tedesco che è il centro di questa Seconda Internazionale, poi c'è la scissione che farà Lenin, portando via tutte le minoranze, diciamo, socialiste di sinistra o che prende il nome di, diciamo, comunista, e fonderà dopo la presa del potere in Russia la Terza Internazionale, che ebbe breve vita però perché durò negli anni tra dal 18, 19, 20, 21, già nel 22, 23 cominciano le sinopsi fino agli anni 20, insomma. Poi Stalin la fossa definitivamente. Poi c'è la Quarta Internazionale, ma la Internazionale è un gruppettino di molto esile, di piccoli, che però fondato da Trotsky, quando Trotsky viene mandato in esilio da insomma, Stalin, poi viene fatto anche assassinare, insomma, all'inizio lo manda dentro. Per un po' Trotsky, diciamo, consiglia ai propri seguaci di stare dentro i partiti comunisti ufficiali e fare un lavoro di opposizione interna, dopodiché dice no, bisogna che uscite e fate dei partiti nuovi, e per cercare di dare nuovo peso a quella, e dice bisogna anche fondare una nuova internazionale, perché ormai quella di morte, però che riprende la cosa di Lenin, e quindi la chiama la Quarta Internazionale. Però la Quarta Internazionale, che esiste ancora oggi, è un piccolo gruppo minoritario come tanti, non ha nulla a che fare né con la prima né con la seconda né con la terza, diciamo, quindi usurpa, non è che usurpa, insomma prende un nome. Io sono stato membro di questa organizzazione per quasi 9 anni negli anni, diciamo, 70, negli anni 70, sì, tra il 1969 e il 1977, quindi la conosco, ahimè, sin troppo bene dall'interno. Ma non è una cosa, cioè, è un'esperienza che ho fatto, che mi ha lasciato un po' di segno, ma insomma. Quindi, diciamo, il nome internazionale, però questo uso del nome internazionale è un po', diciamo, ibrido. Però da un certo punto di vista mostra una volontà di questi gruppi artistici di volere dire la loro anche sul terreno politico, ma contemporaneamente anche quella di imitare in qualche maniera o di, diciamo, ispirarsi ad un modello politico per fare qualcosa del genere anche nell'arte, anche nella, diciamo, cultura. L'International Lettrist è un gruppo formato nei primi anni 50 da uno veramente un po', insomma, pazzoide, rumeno, che si chiamava Isidor Rizu, è uno pseudonimo credo però, Isidor deriva da un fatto molto semplice, Isidor Ducasse è il vero nome, era il vero nome di un poeta francese ignorato finché era in vita, che adesso butto giù il coso, no? Venuto in mente, mi sono già questo, dentro la tasca. diciamo di un poeta ignorato mentre era in vita, ma celebrato dopo la sua morte dai surrealisti, che scrisse con lo pseudonimo di Lautréamont, Isidore Ducasse, Comte de Lautréamont, Conte di Lautréamont. In realtà non era Conte di un cazzo, e Lautréamont era un pseudonimo, ma autore di un libro, diciamo, molto famoso, molto celebrato, che è Le Chants de Maldoror, I Canti di Maldoror. Ducasse visse, era un francese nato in Venezuela, ma arrivato a Parigi a 17 anni, si trova a Parigi, è un contemporaneo di Rimbaud, perché si trova a Parigi durante la Comune, quindi nel 1871, però muore probabilmente di un tumore al cervello pochi anni dopo, quindi a 23-24 anni, giovanissimo. Però ha il tempo di scrivere due libri fondamentali, uno che sono questi Chants de Maldoror, e poi un libro che farà con il suo nome vero, che è Poesie, totalmente diversi l'uno dall'altro. È il libro nel quale si trova forse una frase che forse conoscete, che forse avete sentito, avete letto da qualche parte, che suona più o meno così. La bellezza è l'incontro tra un ombrello e uno stetoscopio su una, no, tra un ombrello e una macchina da cucire su un tavolo operatorio. Ok, è una delle frasi più famose di questi Chants de Maldoror. Scriviamo i nomi così, almeno li sapete. Lautréamont, il nome vero era Isidore Ducasse, ma il Comte de Lautréamont è il nome con il quale l'autore pubblica a proprie spese a Parigi nel 1869 o 70, non ricordo, Chants de Maldoror. Negli anni 30 i surrealisti scoprono questo libro dimenticato, nessuno lo conosceva, e ne fanno uno dei loro precursori. Quindi probabilmente quando questo rumeno, di cui sinceramente non mi ricordo il nome vero, si cerca uno pseudonimo e si mette a nome, diciamo, Isidore Ducasse probabilmente si riferisce. La Nationale Lettriste è un tentativo di riprendere i temi delle avanguardie degli anni 20 e degli anni 10, 20 e diciamo 30 nel nuovo contesto degli anni, diciamo, 50, basandosi prevalentemente sulla poesia e con una e con una, diciamo, ripresa principalmente della corrente della poesia visiva, che affondava le radici dei famosi poeti simbolisti francesi, Stéphane Mallarmé, ma che poi era stata all'interno delle avanguardie, era stata oggetto di alcune nuove sperimentazioni, soprattutto collegate con le arti grafiche e con l'idea del collage. Diciamo, Schwitters da un lato, Taille dall'altro, sono i due artisti che erano più... È una roba che dura poco, e dura poco soprattutto perché il più importante, il più attivo dopo Isù, tra i membri di questa, che erano quattro gatti, di questa internazionale, diciamo, triste, se ne va dopo poco. E questo è un giovane francese che faceva cinema, che si chiama quando vengono i pupi, dai, dico tu, e tutti. Che De Borgia. Si chiama Guy Debord. Guy Debord. Allora, Guy Debord è questo giovane francese, il quale è stato un po' con il libro di Zou, poi gli dico di Zou, perché comunque questo era un ringraziato. E poi forse anche perché la poesia visiva non gliene poteva granché, però è stato il suo primo. Quindi diciamo, da lettrista, abbandona i diciamo, lettristi e entra in contatto con un gruppo invece di artisti visivi e architetti che facevano parte già di Cobra. Cobra, che in realtà noi scriviamo con il K, ma che dovremmo scrivere con la C e con il K, perché era un gruppo, anch'esso, un piccolo gruppo di 6-7 persone, anch'esso internazionale, il suo nome deriva dalle iniziali delle tre principali città in cui stavano queste persone, cioè Copenaghen, Bruxelles e Amsterdam. Da questo si chiama Cobra. Facevano parte di questo gruppo Cobra un interessante pittore, che non so se fosse però danese, forse era norvegese, però viveva in Danimarca, che è Asbjørn Bjørn. Dove cazzo si è andato? Diciamo, i principali sono Asbjørn Bjørn e un architetto di origine francese ma che vive in Olanda, che si fa chiamare con il solo cognome che è Constanza. Il gruppo Cobra opera tra il 49 e il 51, se non mi ricordo bene, quindi subito dopo la guerra, fanno pochi anni insieme, però fanno grandi cose, dopodiché si incontrano con questo parigino, con questo Guy Debord e con un pittore italiano che si chiama Pino Gallizio, che è un piemontese che vive tra il Basso Piemonte e la Liguria, ed ecco perché l'internazionale situazionista nasce vicino ad Imperia nel 57, praticamente a casa di questo Pino Gallizio. Sono 7 persone che la fanno, 5, 6, 7, di cui una gran parte poi se ne andrà via rapidissimamente. Quindi insomma, queste persone entrano in contatto, si dà, si sa fare qualcosa e quindi è l'unione tra una serie di pratiche artistiche più o meno interessanti, probabilmente viste oggi non sono poi così tanto diciamo interessanti, sia quelle di Pino Gallizio che quelle di altri, ne ho scritto male con questa ragazza, mentre sono probabilmente più, io vi dirò che sono poco interessanti secondo me anche i film di Guy Debord, che sono delle grandi macciate sui coglioni, cioè uno deve stare lì, sono film di montaggio di difetti di altri film in cui lui sovrapponeva le sue elucubrazioni diciamo politiche, alcuni deludo molti miei amici, tra cui il filosofo fiorentino Mario Beccella, ma non so cosa faccio, sono delle cose così. Il farsi del male ha dei diciamo limiti anche da noi, quindi possiamo benissimo evitare di andare a vedere il film di Guy Debord. Il quale invece è più diciamo notevole, va invece ricordato per la sua produzione diciamo teorica, che culmina nel 1967, esce l'anno prima del 68, esce un libro che si chiama La Société du Spectacle, La Società dello Spettacolo, che è un libro che diciamo riattualizza il marxismo e quindi è un libro di impianto marxista ortodosso, più o meno, in cui però l'analisi di Marx per la prima volta, effettivamente questa è l'importanza di questo libro, viene applicata non solo alla struttura economica, ma anche a una serie di conseguenze di questa struttura diciamo, economica, quello che oggi noi chiamiamo l'immaginario, che già allora più o meno aveva quel nome lì, perché Jean-Paul Sartre aveva già scritto nel 47 il libro con il l'Imaginaire, che fu un libro che, diciamo, lanciò nella seconda metà del secolo scorso questo termine nuovo, che prima non usava l'immaginario come aggettivo sostantivato, non come aggettivo pure senso, come sostantivo, l'immaginario. La società du spectacle, la società dello spettacolo. Lo spettacolo, dice De Bono in quel libro, non è altro che l'insieme dei rapporti sociali reificati, cioè oggettivati, diventati cosa, alienati, e noi contempliamo lo spettacolo. Diciamo che la televisione è l'emblema, l'esempio più chiaro di questa, è lo strumento che erano esattamente gli anni in cui la televisione si andava diffondendo in Europa, negli USA si era diffusa negli anni 50, da noi arrivò al 59-60, non mi ricordo quando, primi anni 60, anche negli altri paesi d'Europa, quando più, quando meno, forse qualche anno prima in Inghilterra, insomma, gli anni 60 sono gli anni in cui l'immaginario di massa si consolida attorno alla, diciamo, televisione. Quindi lo spettacolo, ci dice, come dire De Boer, è l'insieme dei rapporti sociali reificati, e fino a che noi viviamo all'interno di questo spettacolo, qualsiasi cosa facciamo, anche se facciamo le cose più rivoluzionarie, più terribili, in realtà siamo sempre, se stiamo dentro questo quadro, siamo sempre risucchiati e in qualche maniera, quindi, insomma, strumentalizzati, siamo sempre pezzi, siamo sempre messi al lavoro dalla società capitalista, anche quando crediamo di essere contro, perché non siamo capaci di rompere questo quadro. Per mettersi davvero fuori bisogna romperlo, questo quadro, bisogna sabotare lo spettacolo, bisogna non fare più funzionare lo spettacolo, non fare uno spettacolo di sinistra, è impossibile, dice, non c'è scritto così, è la mia parafrasi, è impossibile, dice, come dire, devo costruire uno spettacolo di sinistra, uno spettacolo comunista, non si può fare. Il comunismo è il rovesciamento, il sovvertimento dello, diciamo, spettacolo, perché lo spettacolo presuppone la passivizzazione, la passività della, come dire, popolazione, la quale sta lì, esattamente come quelli seduti che guardano la, come dire, televisione, a non fare altro che a farsi riempire, e quindi qualsiasi contenuto, non c'è scritta questa cosa, ma se voi ci pensate bene, è simile a quello che diceva McLuhan più o meno negli stessi anni. Il mezzo è il messaggio, non importa i contenuti che dà la televisione, può anche dire buttiamo giù il capitalismo, ma se lo dice l'annunciatore televisivo, io sto seduto sulla poltrona, il risultato sarà l'opposto di quello che dice, non solo il capitalismo. Il capitalismo rimarrà, continuerà lo spettacolo. Quindi il spettacolo, secondo De Boer, è la forma moderna, l'ultima forma nuova del capitalismo. In questo senso si può dire che da un certo punto di vista l'analisi di De Boer anticipa un po' l'analisi sul quello che sarebbe chiamato 10-15 anni dopo, il post-fordismo, cioè questa nuova capacità che dalla metà degli anni 70 in poi il capitalismo dimostra di intervenire anche di intervenire con una logica economica precisa anche nel processo di formazione dell'immaginario. Il testo di De Boer è il primo testo nel quale, più ancora che con i testi della scuola di Francoforte, di Horkheimer e di Adorno, che avevano già scritto precedentemente cose analoghe, Horkheimer e Adorno erano marxisti molto più classici e molto più non sono mai stati così acuti come è stato Guy Debord nella società dello spettacolo, però diciamo in qualche maniera quindi si vede come quindi non c'è più la vecchia ideologia, cioè la vecchia la cultura non viene più vista come il terreno di costruzione di una giustificazione sovrastrutturale per il capitalismo o di una sua contestazione radicale, se mi metto dalla parte opposta, ma separata dai processi economici. Già nella società dello spettacolo di De Boer si mostra come c'è un nuovo rapporto tra processi economici e processi dell'immaginario. Non siamo ancora direttamente, ovviamente, nessuno potrà pretenderlo, alla valorizzazione dell'immaginario, alla messa al valore, alla trasformazione dell'immaginario in merce, insomma, come è oggi, ma ci siamo vicini, è il primo passo, è la prima volta che... Se come dire, tenete conto che contemporaneamente, in maniera totalmente ovviamente diversa e indipendente da lui, dall'altra parte dell'Atlantico, uno scrittore di fantascienza, come dire, visionario e niente affatto comunista, ma formatosi anche lui negli anni di Berkeley, perché viveva a, come dire, Berkeley e aveva frequentato un solo anno di università, ma era fortemente influenzato dal clima controculturale di quella città, che si chiamava Philip K. Dick. Negli stessi anni, addirittura prima di Lebord, tra il 63 e il 64, Philip Dick scrive alcuni romanzi nei quali, riletti oggi, noi leggiamo e la storia del postmodernismo, cioè vediamo se cazzo, l'immaginario che diventa merce. Vi faccio un esempio, Le tre stimate di Palmer Eldritch, che è un romanzo che parla del commercio di droghe, di due droghe diverse che si contengono il mercato e che hanno una serie di effetti, diciamo, di costruzione di mondi diverse. E erano cose analoghe, cioè in un romanzo si vedevano cose analoghe a quelle che Guy Debord stava cominciando in quegli anni a, diciamo, pensare. Non che questa gente ci avesse, insomma, diciamo, chiaramente Debord si guardava in giro, aveva strumenti di analisi un po' più tradizionali dal punto di vista, chiaramente Philip Dick no, insomma, però Philip Dick era in grado, comunque anche egli annusava nell'aria già a metà degli anni 60 negli Stati Uniti qualcosa del genere, cioè capiva in modo confuso, ma poi ce lo fate vedere in modo molto, molto vivo e molto esplicito nei personaggi di questo romanzo, capiva che il mondo delle merci cominciava a, diciamo, cambiare, che il capitalismo cominciava a non essere più quello, diciamo, tradizionale dell'Ottocento, in cui la cosa più importante era costruire locomotive e cannoni, robe belle pesanti, materiali grosse. Non c'era ancora il software, quindi c'era già il software, ma insomma sarebbe ancora di là da venire, diciamo, il personal computer, quindi lo strumento che ha fatto diventare l'informatica una tecnologia a diffusione di massa. C'era l'informatica, ma c'erano ancora i calcolatori, eccetera. Quindi non riesce Dick a vederlo su quel piano. Però c'è un'altra cosa, c'è la droga, che era, diciamo, di cui la controcultura californiana si nutriva abbondantemente, e lo stesso come Philip Dick faceva un grande uso. Non di droghe tradizionali, né di eroina, né di cannabis, né di cocaina, ma principalmente di droghe psichedeliche e di pillole, pastiglie, di tutti i cocktail assolutamente strambili, cioè, perché io stavo male, avevo fatto i colpi. Però quindi lui, diciamo, Philip Dick conosce la droga è una cosa familiare per quegli ambienti culturali, quindi ed è sulla droga che lui costruisce questa metafora del nuovo capitalismo, cioè di un capitalismo che direttamente interviene sull'immaginario, in cui l'immaginario diventa merce, esattamente come avrebbe detto Debord un po' dopo, qualche anno dopo, sulla società dello spettacolo. Adesso fate il... Come faccio la pausa? Non c'è la pausa, bastardi. Devo fare...